mi senti? Mirko, mi senti? Portami la mascherina. Mirko, ci sei? Sì, Stefano, ti do il cambio. Dice Michela che devi venire qui perché la deve dare all'interessato. Su disposizione di Michele Goddo. Goddi, scusa, ho sbagliato. Mirko. Arrivo. Falaschi, Falaschi, l'avevi lasciato da solo. Falaschi. Ronda cassa, cassa, fatti sentire, sei vivo? Rischio, facendo la mascherina, ce l'hai? Ce l'hai o no? Rispondi. Cassa, ingresso. Siamo preoccupati per te, rispondi. Cassa, ingresso. Ronda America. Falaschi è la prima vittima del coronavirus. Falaschi. Cassa, ingresso, mi senti? Dimmi. Cassa, non risponde a questo cazzo a radio. Veramente era spento, non me ne ero manco accorto, ce l'avevo aperto così. Cazzo, tutta la sera chiamando, ti cazzo, detto che è morto, cazzo. Hai avuto un colpo di coronavirus. E poco ci manca se continuiamo così. Ah, noi siamo carne da macello, fregatene. Fidati che non è venuto, non c'ero io stamattina, se no a Michele Goddi già gliene dicevo io un paio. Infatti c'ho un po' le baleggiate anch'io questa situazione, cazzo, ti hanno dato un paio di guanti, due maschere del cazzo, sembra che ti abbiano dato non so che cosa, e poi te li hanno date quando cazzo hanno voluto loro. Guarda, meno male che almeno conosciamo infermieri e tutto che ce li portano loro, perché fosse stato per la ditta nostra, cazzo, siamo tutti carne a macello, bastardi. Cazzo, veramente, guarda, cioè, non si fa una cosa del genere, non si fa. Oh, io non so, cazzo, ma domani non pensi questi qua sono in mezzo alla gente, cioè, loro vengono qua solo per disposizioni. Quando ti serve qualcosa non ne sbatte un cazzo. Ehi, ma io gliel'avrei detto, occhio però per quello che state facendo, perché se appena appena mi prendo qualche cosa io vengo lì in centrale e stanno un disco in faccia a tutti. E non solo, poi va una cosa che è penale, perché loro qua non ci possono lasciare così, ci devono mettere in condizione di lavorare anche. Ma infatti, ma poi cazzo anche tenere la cassa aperta questi giorni per 300 euro, ma cosa cazzo te lo fa fare? Cioè devo rischiare io e tutti gli altri per che cosa? Per farmi incassare dei 300 euro, ma vaffanculo. E poi neanche lo potresti fare, quello dovrebbe fare un dipendente, sono soldi pubblici come cassa, quello del ticket, lì la cassa. Ma infatti. No, almeno dico, mettimi in condizione di lavorare, mettimi in cassa una mascherina, qualcosa, cioè dammi un po' di conforto, questo proprio non ne frega un cazzo. Vengono qua, ma dovete fare, ma dovete fare che cosa? Ma sono dove? Diritti non li abbiamo noi. Basta dirglielo, ma perché non vieni tu a farti un bel servizio al ticket lì in mezzo a 1000 persone e poi ci facciamo due risate? Infatti io poco fa stavo in casa, sto parlando con Michele, ho detto cazzo qua la gente parla al telefonino, manda messaggi del cazzo, quando li vede davanti si caga sotto, bisogna dirle le cose a questa gente, le cose giuste bisogna dirle, ma bisogna avere paura. Ma infatti, cioè io infatti mi sono stupito che nessuno abbia detto qualche cosa stamattina come l'hanno visto. No, Emiliano si è attaccato, stava messo bisticciando con Michele. Ho fatto bene, che risposta ha avuto? E dice adesso mi vediamo, e mi ha detto sì, ma tu vieni qua alle 10 del mattino, noi ci siamo dalle 6 del mattino qua, davanti alla gente, dando bigliettini, facendo quello. E tu hai detto, vieni tutto tranquillo, vabbè non è successo niente. Come non è successo niente? Certo non è successo niente, e se succede qualche cosa? E infatti è meglio che non succeda niente. Cazzo, questa gente poi io non lo so, ma come cazzo ragionano veramente, io non lo so. Cioè è un punto sensibile questo, è un ospedale. I primi che siamo a contatto siamo noi alla gente. Cazzo, ma domani non capisco. Ma appunto per quello, se aspetta un attimino, io appena vedo la cabina setta, cazzo, glielo dico io due cose. Cazzo, non è che ci devono prendere in braccio, ma già ci devono dire, ragazzi, in gamba, state facendo un buon lavoro, state lavorando in mezzo, cioè rischiando anche, perché qua rischiamo anche. Che cazzo ne sappiamo? Ogni tanto ne arriva uno nuovo, adesso è passato quel dottore degli infettivi e mi ha detto c'ho un'urgenza, devo andare, è passato in mondo, cazzo. Ma ne vogliamo parlare, Aspetta che già mi sentono a me. Tu ce lo vedi su a Uri e anche a Gavino, glielo dici, Gavino, siamo in questa situazione, però è giusto che ci dovete trattare così. Certo che glielo dico, ma secondo la risposta che mi dà io gli mando direttamente il foglio delle ferie, c'ho 20 giorni all'anno scorso, tutti e 20 me li prendo. Allora, arrivato a questo punto poi quando si mette in malattia la gente non c'ha ragione, cazzo mia, questa è una cosa seria, non c'è da scherzare. Appunto per quello, poi se non sei cattivo lo diventi. sai cos'è? Maria che per me, ma io lo posso anche superare, non mi interessa niente, ma io dietro c'ho una famiglia, c'ho mio padre e mia madre che sono anziani, c'ho i miei figli, cazzo, ma se allora non ne sbatto un cazzo, a me mi interessa. Per me è la stessa identica cosa, penso che siamo tutti così, sta. Il fatto è che a loro non ne frega niente, basta che tu vai a fare il tuo servizio e poi vaffanculo. Appunto per questo bisogna, quando si vede, bisogna dire le cose. No, no, sì, un bel cazzo. Allora, basta fare una cosa, però dobbiamo essere tutti uniti, tutti insieme, andare lì in centrale, oppure chiamare, farli venire qua e spiegargli la situazione, perché sennò, cazzo, questa è una presa per il culo. La situazione, noi parliamo anche con i medici, la situazione, io ho parlato anche con quello con la barba, quello del fermento, non la prendete alla leggera, perché è pericoloso, ormai ha preso a mano questa cosa, e chiunque può essere infetto in giro. Adesso non esiste più quello che non c'è qua, oppure in Lombardia. Può essere ovunque, ovunque. Ma infatti anche una persona che sta bene, che non ti rendi conto, può essere infettata direttamente senza che lui lo sappia. Certo, ma noi che poi lavoriamo in mezzo a tanta gente, cazzo, fai 1000 persone e non ce n'è uno. Ci può essere. Siamo più a rischio degli altri, no? Eh beh, cazzo, siamo anche in un ospedale, quindi se arrivano, arrivano qua. Quindi ti passano pure davanti. Cazzo, facciamo anche cose sensibili, anche gli infettivi. La guardia lì. Cioè, non lo so io, No, è fuori di testa davvero. L'unica cosa è metterci d'accordo tutti quanti, chiamare, farli venire qua e spiegargli la situazione com'è. Almeno si rendono conto forse come deve andare la storia. Perché loro la vedono da fuori, la vedono più leggera, ma qua è più pesante, perché qua ogni tanto ne arriva uno, siamo sempre spaventati, ne hanno parlato uno, ne hanno parlato quello è infetto, quell'altro no. Cazzo, da qua siamo sempre assultati. Beh, tanto per loro ci siamo noi, a loro mica gliene frega qualche cosa, sono chiusi nel loro ufficio, gliene frega il cazzo. Infatti, dopo. Vabbè, dai, vediamo bene, ci vediamo dopo, va. E io a dopo, ciao a te. Buona dell'agile. Una ronda si avvicina per un cambio. Cassa a ronda 2. Ingresso a ronda 1, ronda 2. Un cambio. Qui ronda 1, sto arrivando. Mirko, mi senti? Mi senti, Mirko? Ronda 2, mi senti? Mirko, mi senti? Mirko, mi senti, Mirko? Stefano? Dimmi, Mirko. Qua c'è un casino, Stefano. Adesso vengo e te lo dico. Potrebbe... la radio, come siamo collegati? Aspetta un attimo, Potrebbe arrivare un altro piccione. Ma non si sa di preciso, ma ce l'hanno già accennato. Piccione da Mavaz. Sì, sì. Se ne stava andando una di queste lavora qui e ce l'ha detto. Ed è quella te la dico, no, aspetta, l'altra te la dico adesso, arrivo. Mirko! Sono qua, mi vedi? Sì. Ti ho procurato quelli più grandi quanti? Sì, sì. Io non posso andare neanche alla Marina del Sorso al mare, devo avere quel foglio, lo sai. Cazzo, mia casino. Cazzo, bobo. Mi pare di Gesù che non mi posso stare. E come è, hai bisogno di un foglio? Io sono da Porto Torres.